24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la crisi greca, con il duro giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's, che ha nei fatti equiparato le proposte della Federazione Bancaria Francese sul piano di salvataggio per Atene a un default selettivo. Da Bruxelles si replica con un no comment, mentre in Grecia si lavora contro il tempo per dare attuazione alle nuove misure di austerità appena approvate. Sempre la Commissione assegna un primo giudizio positivo alla manovra italiana. Continua intanto a far parlare di sé il criminale di guerra Ratko Mladic. Oggi parleremo anche di Ryanair, che in Italia ha qualche problema di pratiche commerciali scorrette, e di tennis con la gran finale di Wimbledon. No comment sui dubbi di Standard & Poor's sul rollover del debito della Grecia. L'Europa continua, come stabilito, a mettere a punto i dettagli del secondo piano di salvataggio, che comprenderà il settore privato e che mira ad evitare il default ellenico. Secondo quanto ha spiegato il portavoce del commissario agli affari economico-monetari, si lavora senza sosta per definire le modalità tecniche del nuovo piano per Atene e c'è già una convergenza di vedute tra le banche più esposte. Lo scopo, ha spiegato, è di avere un piano solido che tenga conto di tutti gli scenari ed eviti default selettivi. Anche la portata del coinvolgimento dei privati è da definire nelle prossime settimane e si guarda alla riunione dell'Eurogruppo di lunedì per mettere qualche punto fermo. Entro la fine di luglio, intanto, il Ministero delle Finanze greco dovrà dare inizio all'attuazione delle nuove misure di austerità previste dal programma a medio termine varato dal governo socialista in collaborazione con i creditori. In più dovrà fare una corsa contro il tempo, visto che entro la fine del 2011 dovrà incassare 6,8 miliardi di euro per coprire il buco nero presente nelle entrate fiscali. L'adozione del nuovo pacchetto pluriennale italiano è benvenuta perché è in linea con la raccomandazione di predisporre senza ritardi tutte le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di una posizione di bilancio equilibrata nel 2014 e accelerare la riduzione del debito PIL, che è molto elevato. Questa è la posizione del commissario agli affari economici Olli Rehn sulla manovra varata dal nostro governo. Rehn indica che, dato che tutti i dettagli delle misure non sono ancora disponibili, non è possibile valutarli a questo stadio. Tempo di ascoltare come sono andate le borse nel servizio. Seduta debole per la borsa milanese dopo il rally della scorsa settimana, complice anche la chiusura di Wall Street. Sui mercati è prevalsa la prudenza sulla scia dell'allarme lanciato da Standard & Poor's, che ha acceso riflettori sulle possibili modalità di riscadenziamento del debito greco. A Milano, che ha ceduto lo 0,20%, la peggiore sul FTSE MIB è stata Atlantia, che ha perso oltre il 5%. Il mercato si aspetta che la manovra del governo contenga una stangata per le società che gestiscono i pedaggi autostradali in Italia. Anche Enel meno 1% ed Enel Green Power meno 1,5% hanno risentito delle indiscrezioni sulla manovra, in particolare sul reinserimento di un taglio del 30% degli incentivi e delle agevolazioni in bolletta per le energie rinnovabili, un'ipotesi peraltro smentita dal ministro Romani. Tra i titoli positivi, migliori sul paniere principale sono stati quelli delle banche di medie dimensioni come UbiBank e MPS, salite del 5% circa, il Banco Popolare più 3% e BPM più 2,10%. Male invece Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. È stata una mattinata movimentata quella di ieri all'apertura dell'udienza davanti al Tribunale Penale per la ex Jugoslavia. Protagonista Ratko Mladic, sentiamo. L'atteggiamento è stato da subito arrogante. Mladic si è presentato in aula con il berretto da soldato e si è lamentato quando è stato costretto a toglierlo. Per il resto dell'udienza non ha fatto altro che borbottare e protestare vivacemente nei confronti della Corte, tanto che alla fine il giudice ha deciso di farlo portare via dall'aula. In questa seconda udienza davanti al Tribunale Penale dell'Aia, Mladic avrebbe dovuto dichiarare colpevole o non colpevole degli 11 capi d'accusa, tra cui genocidio e crimini contro l'umanità, ma si è rifiutato di rispondere alle domande chiedendo un rinvio dell'udienza. Mladic ha addotto ragioni di salute, ma soprattutto ha detto di non riconoscere come suo legale l'avvocato assegnatogli d'ufficio. Senza il mio avvocato, ha detto rivolgendosi al giudice, non ho bisogno di dire e fare nulla di quanto lei si aspetta. La Corte non ha riconosciuto valide le richieste, secondo lo staff medico del Tribunale non ci sono ragioni per un rinvio e quindi ha proceduto, come prevede il regolamento, a dichiarare Mladic non colpevole per ogni capo d'accusa. L'ex generale serbo-bosniaco è accusato, lo ricordiamo, dell'assedio di Sarajevo e soprattutto del genocidio di 8.000 civili musulmani a Srebrenica nel 1995. 204 feriti tra le forze dell'ordine e 188 tra i manifestanti. Questo è il bilancio degli scontri di domenica in Val di Susa, scoppiati in seguito alle proteste contro la TAV. Nel frattempo i lavori nel cantiere di Chiomonte sono ripresi, in linea sembra con le richieste dell'Unione Europea, per la quale l'apertura del cantiere era condizione necessaria per l'erogazione dei fondi a copertura di un terzo del costo dell'opera. Come ci racconta il commissario straordinario della linea Torino-Lione, l'architetto Mario Virano, intervistato da Giacomo Segantini. Sì. Un profilo militare o delinquenziale ed è sicuramente una pagina nera in cui gli unici elementi che emergono positivamente sono l'efficienza e il senso di responsabilità delle forze dell'ordine e, mi faccia dire, l'abnegazione delle maestrante che sono rimaste lì mentre c'erano gli attacchi e che alle 8:30 di sera hanno ricominciato regolarmente a lavorare. Il cantiere ha retto egregiamente e non c'è stata nessuna violazione dei suoi confini. Questa mattina sono ripresi i lavori per l'estensione dell'area di cantiere come da programma e quindi da 27 giugno noi abbiamo rigorosamente rispettato, sia pure in zona Cesarini, il calendario europeo, che era una delle condizioni che c'erano state poste dalla Commissione europea. I lavori proseguono e secondo me dalla vicenda di ieri traggono maggiore slancio. Oltre 500.000 euro di sanzioni alla compagnia aerea low cost paneuropea Ryanair per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Sentiamo il servizio. Biglietti aerei a 10, 5 o anche un solo euro per volare dall'Italia ad una qualsiasi città europea. Offerte così non sono poi così rare dalle compagnie low cost. Il problema però è che spesso il prezzo pubblicizzato non corrisponde a quello reale. I posti sono pochissimi, a volte introvabili o comunque il prezzo lievita aggiungendo le varie tasse, il bagaglio e l'assicurazione. Ad accorgersi di questo meccanismo non sono solo i passeggeri, ma anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha deciso di intervenire. Ha sanzionato Ryanair per oltre 500.000 euro per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Ma vediamo nel dettaglio le contestazioni. Innanzitutto si parla di ingannevolezza dei messaggi pubblicitari che prospettano offerte risultate introvabili dagli utenti, specchietti per le allodole dunque per attirare clienti. C'è poi la mancata indicazione nella tariffa dei costi aggiuntivi, per esempio il costo per il check-in, il supplemento carta di credito, l'IVA sui voli nazionali, tutti i costi che vengono aggiunti automaticamente durante la prenotazione online. L'Authority contesta anche la difficoltà da parte degli utenti di ottenere assistenza per il rimborso dei biglietti in caso di mancata fruizione del volo e contesta che ai consumatori italiani siano proposte le informazioni in inglese. Ultima nota, gli esborsi aggiuntivi giudicati dall'Authority ingiustificati nel caso di variazioni di date, orari, nome del passeggero o addirittura per la riemissione della carta d'imbarco in aeroporto. Queste dunque le contestazioni a Ryanair, che però è in buona compagnia. Nei mesi scorsi erano già state sanzionate per ragioni simili Alitalia, Blue Express, Air Italy, Germanwings, Wizz Air e EasyJet. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport tennis, il torneo inglese di Wimbledon ha un nuovo re, sentiamo. 24 ore da sogno per il tennista serbo Novak Djokovic. Non mi sono ancora svegliato, ha detto lui stesso sul campo centrale di Wimbledon. Ieri la vittoria non del tutto attesa nella finale contro Rafa Nadal, che ha dominato. Oggi l'elevazione a numero uno della classifica mondiale. Negli ultimi mesi Djokovic non si è fatto mancare niente. A fine 2010 la vittoria in Coppa Davis alla testa della Serbia. Nel 2011 48 vittorie su 49 partite disputate, il successo all'Australian Open e ora quello di Wimbledon. Nella sua patria, che dopo essere venuto su sotto i bombardamenti ha lasciato a 14 anni per andare a crescere tennisticamente in Germania, sono tutti impazziti. Una piccola dimostrazione si è avuta ieri sul normalmente compassato Center Court. Djokovic ha mangiato un ciuffetto d'erba e poi ha dichiarato che è ottima. Nel Royal Box a fianco del Duca di Kent, il presidente serbo Boris Tadic era più scatenato di Pertini ai mondiali di Spagna dell'82. Dopo la lunga diarchia Federer-Nadal ai vertici del tennis mondiale, Djokovic, consacrato da Wimbledon, non è più un semplice terzo incomodo. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Wimbledon. Per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la riunione della Commissione europea a Strasburgo, alla plenaria dell'Europarlamento dibattito sul bilancio della presidenza ungherese dell'Unione e discussione sulla possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio dei Paesi membri. Infine il Presidente della Commissione, José Barroso, farà una dichiarazione sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea.